Siamo in collegamento telefonico con Serafino Iorli, l'attore Serafino Iorli, per parlare del suo nuovo spettacolo Disagio. E non si tratta così una creatura, dal 24 al 28 gennaio al Teatro Cometa Hoff qui a Roma. Serafino, intanto ben ritrovato. Ci racconti allora intanto un po' la storia, di cosa si tratta? Si chiama Fortunato, che praticamente si è segregato, come posso dire, gradualmente a casa, accumulando praticamente oggetti, e conservandoli dentro dei scatoloni. Infatti tutto il parco è pieno di scatoloni, insomma soffre di sindrome di accumulo, proprio perché praticamente non ha avuto l'affetto da parte della famiglia, e allora praticamente riversa tutto questo affetto in queste cose che lui conserva, e pulisce continuamente in modo maniacale. Diciamo che lo spettacolo, il filo conduttore è l'emarginazione di questa persona, la solitudine. Non è uno spettacolo, è anche triste, diciamo, però anche divertente. Lui praticamente litiga continuamente con se stesso. Sono un po' ispirato a Sale Olio, ho pensato un po' a lui, capito? Solo che loro sono in due e mi ci sono da solo, cioè, le dico come stesso, insomma. E nascono queste gag un po' surreali, capito? Tra lui e questa persona. Perché ha problemi sia praticamente con se stesso, ma anche problemi con il condominio, perché praticamente accumula, accumula. Posso continuare a parlare? Continuo a parlare. Sì, tranquillo. Allora continua praticamente, litiga continuamente con quelli del condominio, con la signora Quattrocchi, quella del piano di sotto, perché chiama continuamente l'ASL, con lo psichiatra, insomma c'è questo conflitto con il suo mondo esterno che lui però piano piano di cui si è allontanato, capito? E poi aspetta questa persona che arriva e riversa pensa praticamente che la soluzione di tutti i suoi problemi sono questa persona, insomma, pensa che questa persona che arriverà gli darà un futuro migliore, insomma. E questa persona si avvicina sempre di più, arriva questa telefonata, e poi dopo, insomma, c'è un colpo di scena di cui però non mi va di parlare, magari Certo. un po' dopo, ecco. Certo. Diciamo che lui è, ecco, Senti. ho scaricato le pile. Serafino, ci parli anche un Dimmi. po' di questo testo di Lamberto Carrozzi, anche del vostro rapporto artistico? Allora, il testo praticamente è stata proprio una nostra scelta, ecco, perché entrambi volevamo parlare proprio della solitudine. Una solitudine vista anche attraverso un po' la follia di questo personaggio, insomma, che è un personaggio che ha sui 50 anni, e volevamo affrontare questo problema della solitudine e dell'emarginazione. E allora piano piano lui ha cominciato a scrivere delle cose con i miei impulsi, insomma, sono circa 6 mesi che stiamo lavorando su questo testo. È uscito fuori un testo abbastanza molto interessante, perché diciamo, tocca insomma, queste tematiche che sono, insomma, questo disagio, insomma, mi sento un po' anche un disagio un po' collettivo, soprattutto noi che viviamo in una città, io in ogni cosa che faccio trovo questo disagio, e questa voglia di allontanarmi un po', di isolarmi, di che ne so, cioè, emarginarmi, insomma, su questo equilibrio che non riesci mai a tenere stabile. Allora abbiamo cercato di mettere in scena tutto questo disagio, insomma, che io sento, che sente anche Lamberto Carrozzi, regista, attraverso questa persona che vive in questa stanza e che praticamente soffre di sindrome di accumulo. Però, ti ho detto, è molto allegro perché, Sì, insomma, sì. perché queste gag che lui fa con se stesso poi finiscono sempre con l'isteria o con delle risate, uno c'ha la rivalsa con l'altro, insomma, questa stanza è animatissima perché praticamente lui organizza pure questo festino che organizzava il padre, perché c'ha avuto pure dei problemi col padre, insomma, cioè tutta è animata questa stanza di tanta gente, però praticamente poi esce solo lui, capito? Lui si immaginano tutte queste persone, addirittura gli muore il gatto, lui non è che lo butta, lo mette in una scatola, Certo, perché poi gli fa pure recuperare. poi tempo fa a San Lorenzo hanno sgomberato questo appartamento di questa signora che soffriva di sindrome di Accumulo e ci hanno trovati 30 gatti. Però io stessa l'ho scritto prima, cioè, capito? E sì, perché hanno avvertito la ASL perché si sentivano cattivi odori, perché queste persone che soffrono di queste cose poi c'è pericolo di un incendio, di cattivo odore, addirittura la signora, quella del piano di sotto, ha detto che ha diffuso una specie di pandemia, ecco, condominiale, capito? C'era nel palazzo, capito? Tutti, si sente che ce l'hanno tutti con lui, capito? Senti, dai anche i tuoi riferimenti web, se c'è un sito internet o una pagina Facebook dello spettacolo o tuo personale? Allora, c'è una pagina che si chiama Disagio. Io sono Serafino Iorli, sto su Facebook e c'è pure l'evento. Benissimo. C'è sia l'evento che la pagina. Per chi mi vuole trovare, insomma, trova là, ecco. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al teatro Allora, la com Comédia Off, sì. via Luca della Robbia 47, Staggio, teatro Comédia Off, dal 24 al 28 gennaio, tutti i giorni alle ore 21, la domenica alle ore 18, mi sono imparato a memoria. E chi vuole prenotare, il numero del telefono 06 57 28 4637. Benissimo. Allora, Serafino, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Credi.